fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ricordo che all'inizio degli anni Ottanta tutti i miei colleghi, cresciuti, allevati e pasciuti nel pretume romano, mi guardavano con un occhio di disprezzo e di distanza perché ero single. Beh, in effetti erano tutti fidanzati, ammogliati, accoppiati, affamigliati. Io sembravo un cane sciolto, mi guardavano e mi tenevano a distanza con il forcone. E poi ricordo che allora al termine single, che significava semplicemente una persona che viveva sola, ho vissuto solo fino all'età di 40 anni, non ho nessuno scrupolo nel dichiarare qui la mia biografia, beh, era considerato quasi un'eccezione, perlomeno nella capitale. Un single era qualcuno che, avendo passato i 30 anni, si guardava con un certo occhio di sospetto. Hanno due le accezioni che tenevano lontano il single dalla comunità parrocchiale dei miei colleghi di Rai di quegli anni lì. Il fatto che un single potesse essere una pericolosissima tentazione per la compattezza delle loro coppie costituite, o al contrario che uno stesse da solo per chissà quale particolarissima diversità non l'avesse fatto convolare a giustissima attività di filiazione plurima. Beh, sono passati quegli anni, tanto che oggi abbiamo il fenomeno inverso: i single sono in percentuale superiore rispetto alle coppie, perlomeno questo è l'unica il dato più interessante uscito da una recente indagine demoscopica, che vuole Milano, una città in cui le persone che vivono sole superano quelle che vivono con una famiglia. Ora, questo dato andrebbe sottoposto a una più attenta valutazione, si fa presto a fare un titolo: Milano, i single sorpassano le famiglie. Ci sono tutti gli stranieri che si segnano appunto come persone che vivono sole, esistono tante coppie di fatto che vengono segnati come singoli, in realtà non lo sono. Esiste un'infinità di accezioni, per cui forse il termine statistico non è così evidente, non è che le persone vivono più sole rispetto a quelle che vivono in coppia, però è un dato accertato il fatto che oggi non sia più una singolarità vivere da soli. Quali sono gli aspetti in cui cade chi vive solo? Innanzitutto è sottoposto al senso di invidia da parte di chi ha abbandonato la condizione di solitudine o di vita solitaria. Tutti noi invidiamo i single il fatto che tornino a casa, hanno la casa vuota. Tutti invidiamo i single che hanno sempre un luogo disponibile per appartarsi, per chiudersi dentro, per fuggire, senza avere la necessità comunque di dover riferire a una famiglia qual è il proprio stato d'animo, qual è il proprio umore, quali sono gli orari a cui uno piacerebbe appoggiare la propria giornata. D'altra parte i single, ricordo con grande e struggente amarezza quello che mi disse una mia cara amica milanese proprio qualche tempo fa. Mi disse: ma tu non ti rendi conto, è una persona professionalmente realizzata, vive sola, e dice: tu non ti rendi conto cosa significa la sera avere bisogno di averci una persona vicina. Uno darebbe qualunque cosa per avere una persona vicina. E quindi sul piatto della bilancia ci si mettono questi due atteggiamenti. Oggi vorremmo fare il programma dedicandoci esplicitamente e precipuamente alle persone che vivono sole. Il vivere solo è ancora considerato una sorta di eccezionalità, o nella normalità del vivere solo si guarda con attenzione, con invidia o con commiserazione le persone che in realtà dividono, in naturale dal punto di vista del singolo, la propria giornata con altre persone che possono appesantire, possono avvelenare, ma possono anche riempire i momenti di atroce solitudine della propria giornata? 800 24 00 24. Oggi avranno voce i singoli e le singole, soprattutto al tempo di Facebook. Single, per scelta propria o degli altri? Troppo riduttivo, eccessivamente semplicistico. Per grandi linee possiamo affermare che esistono addirittura tre tipi fondamentali di single. Primo, la single per vizio o cronica, quella che punta soprattutto alla sua carriera, che considera la sua abitazione una specie di albergo in cui soggiornare tra un viaggio di lavoro e l'altro. Rientrano in questa categoria quelle che sono single per una lucida scelta narcisistica e pensano di poter bastare e badare a se stesse. Secondo, la casalinga, per la quale la casa è un rifugio accogliente, conosciuto e rassicurante, dove invitare ogni volta che può gli amici, spesso, e i familiari, lo stretto necessario. Viverla da sola non è comunque un problema. Terzo, la temporanea, la famosa single per scelta degli altri e dunque a scadenza. Quella che è stata costretta ad accettare questa sua condizione. È stata piantata, per esempio, ma spera prima o poi di dividere il suo nido con un compagno. Sono quelle che proprio non sanno stare da sole. L'inizio della scheda naturalmente è molto orientato verso la singolarità di tipo femminile, che è quella che devo dire che crea più suggestioni, crea più attese, crea ancora più perplessità o perlomeno crea quel goloso senso di curiosità in uomini e donne. Come sarà la casa di una donna che vive sola, ma non soprattutto non una ragazzina, una studentessa, una donna che già è introdotta nel mondo del lavoro, nel mondo della socializzazione, questo sancta sanctorum inviolabile in cui soltanto poche amiche, soltanto pochissimi privilegiati, molti arrivano fino all'uscio, perché una donna che vive sola in realtà è un regno a non scatenarsi di improvvise fantasie. L'uomo che vive solo ha una, non è la voce rotta, la commozione, ma è, ahimè, la raucedine data da le intemperie, ma naturalmente è giusto che l'età segni anche la voce in queste circostanze. Dicevo, la singolarità maschile in realtà è molto meno suggestiva. Il single è sempre tristanzuolo, la casa dell'uomo che vive solo è sempre un'ostentazione di alcune caratteristiche di espansione massima, di virilità, di socializzazione, di passioni che dovrebbe rappresentare l'uomo che vive solo. Andate a guardare invece sotto il tappetino accanto al letto l'uomo che vive solo, andate a guardare nei recessi del suo gabinetto, andate a vedere dentro l'armadietto della sua cucina e vedrete qual è la miserrima condizione dell'uomo che vive solo. Ma non è che abbiamo sbagliato programma, questo è Cucinone, la cucina dei single. Per chi è single per scelta, chi è più single per forza. Scelta. No, un'altra scelta. È sempre una scelta. È sempre una scelta, capito? No, è l'altra parte. Vedi, c'è anche Maria da Como che ti racconti, dice: ma Antonella, ma quelle esterne erano vere? Erano verissime. Bene, infatti si è rifatta le labbra apposta, Antonella. Scemo. No, scherzo, signora, vabbè. Signora, dica qualcosa, no. Dica tutto vero. Vilma, primo piatto, come si chiama il primo piatto che noi facciamo? Risotto alla Flavio. Perché alla Flavio? Allora, alla Flavio perché è una ricetta antichissima che ha elaborato il papà di Sergio Caprasecca, che come sapete sono ristoratori da tantissimi. Queste sono micro trasmissioni fanta televisive, in realtà l'abbiamo prese da YouTube, ma nel quattume dell'orizzonte mostra uno dei problemi della singolarità maschile, che è quello di procurarsi cibo, alloggio, tiepido alloggio, diciamo, confortevole alloggio, di provvedere alle esigenze pratiche. Nel nostro mammonismo viscerale noi pensiamo che l'uomo solo abbia soltanto l'insondabile e insolubile problema di provvedere a se stesso e sostituire con le sue candide mammine alle amorevoli madri di sua madre, ma io penso che i problemi della singolarità anche maschile siano di altro tipo, siano di tipo relazionale, siano di gestione dello proprio spazio emotivo. Invece chissà perché tutti pensano che il problema sia soltanto la temperatura giusta del ferro da stiro. Come si stira una camicia? Ossia il classico dilemma, la classica domanda di quando un uomo va a vivere da solo e non c'è più la mamma che gli stira la camicia. Innanzitutto si slacciano i bottoni del colletto e si stende il colletto per bene sull'asse. Se volete potete usare un po' di appretto, quindi col colletto ben steso si esercita tanta pressione in modo da farlo. Mi rendo conto che mandare queste clip contribuirà ad aumentare quel senso materno di carezzevole e avvolgente commiserazione che le donne hanno sempre per l'uomo solo che deve provvedere alle sue cosucce. Ricordo gli stratagemmi da single di andare al supermercato e fingersi sprovveduto, tenere d'occhio le signore e chiedere con un fare umile, miserevole, mi consiglierebbe che tipo di caffè devo prendere, oppure come si fa il sugo? Io l'ho fatto ultimamente chiedendo, ma casualmente avevo i figli al seguito, quindi era del tutto improbabile, chiedendo a una signora come si usasse un certo tipo di lievito. E mi ricordo che questa signora improvvisamente dedicò tutta la sua persona, tutta la sua passione, perché prima di accorgersi che avevo quei giuggioloni dei miei figli accanto a me, pensando che appartenessero a qualcun altro, era già pronta per occuparsi anima e corpo di quel povero disgraziato che aveva bisogno di aiuto materno. Diamo un'occhiata al frigo. Allora, queste uova, chissà da quanto sono qui, però per le uova c'è un metodo abbastanza divertente per capire se sono fresche. Te lo faccio vedere. Hai una bacinella d'acqua? Sì, perfetto. Quando l'uovo non sai quanto tempo, da quanto tempo ce l'hai, cosa fai? Per vedere se è fresco lo metti in acqua. Mm-hmm. Se sta sul fondo vuol dire che è molto fresco. Più tende verso la superficie o se tende a galleggiare, insomma, vuol dire che ha troppo tempo e meglio non aprirlo quell'uovo. A me mette tristezza che, nella fattispecie, un uomo, penso di età giovanile, che vive da solo, ha questo grande, estremo privilegio, deve preoccuparsi se l'uovo è fresco o comincia ad andare sul fradiciume mettendo dentro l'acqua, un sistema, uno stratagemma che usavano le nostre nonne, ma chi se ne frega, butta le uova nella spazzatura, esciti e vattene al ristorante, vai in pizzeria, invita qualcuno, fai qualcos'altro. No, mette l'ovettino a mollo per vedere se l'uovo galleggia o viene a galla. Vedete qual è la piega tristissima della singolarità? Il non riuscire a provvedere nemmeno a quello che dovrebbe essere già dato per scontato, dovrebbe essere già il punto partenza di un'immaginifica e splendida missione di uomo dispensatore di piaceri, di delizie, di singolarità. Ma così non è. Maria Grazia, buongiorno. Maria Grazia. Pronto? Eccola. Buongiorno. Pronto? Ci siano due tipi di due modi di essere singoli, maschile e femminile. Io sono stata single fino a 30 anni e dal momento che ho 62 anni... Ha la radio accesa, Maria Grazia? Sento... No, per niente, ecco, spenta. Ecco, perfetto, adesso va benissimo. E dal momento che ho 62 anni, 32 anni fa, essere single a 30 anni si era zittelle, non si era single. Dopo mi sono sposata e per 32 anni sono sposata tuttora, ho un marito. Dopo 32 anni lui va in pensione e il tornare single sarebbe un mio desiderio, ma non per fare cose eccezionali, ma per riacquistare quella libertà che 32 anni di matrimonio comunque sono una condizione. Vabbè, chi glielo impedisce? Scusi, di prendersi le sue libertà adesso? Le libertà vuol dire proprio la libertà di essere single, di avere una casa propria, di tornare... Ah, quindi è un problema logistico? No, la capisco perfettamente. Guardi, io che rinnegavo il mio appartamentino di scapolo, oggi darei l'anima per poterci avere qualche giornata di tranquillità, quindi lo so perfettamente. Ahimè, la croce di chi fa la perfetta e meravigliosa scelta di averci poi qualcuno vicino per tutta la vita. È così, è normale. Uno dovrebbe avere l'uno e l'altro, potere centellinare la condizione single con la condizione di persona realizzata dal punto di vista familiare, ma questo non è mai sempre molto possibile. Solo che non capisco perché questo suo rimpianto non può sortire a delle veloci quanto intense fughe domestiche. Le veloci fughe domestiche si possono fare, ma si possono fare per 2 o 3 giorni, perché avendo dei figli ormai grandi si è giudicati, ma perché non va bene il tuo matrimonio? Mio matrimonio. Vabbè, se lei ancora, scusi, se lei ancora 60 e passa anni si preoccupa del giudizio degli altri, allora non ci sarà situazione logistica che la libererà dalla schiavitù del giudizio altrui. Quindi, signora mia, mi dispiace, ormai single non tornerà mai per tutta la vita. Abbiamo Giulia. Giulia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao. 38 anni. No, 37. 37. Mamma mia. Mi hanno scritto 38. In che condizione ti trovi, Giulia? Guarda, io sono in una condizione in cui abito ancora con mia madre e diciamo che sono, ora sembra una frase fatta, sono single per scelta perché mi sono... Beh, non sei single, vivi con la mamma, non è tanto singolare. Sì, però voglio dire, vivo con la mamma per una questione anche di, tra virgolette, di comodità e di scelta. Ma non sei single, scusa, se tu vuoi portarti il principe azzurro a casa la sera che fa la mamma... Ma io ho la mia casa al mare. Ah, c'è la seconda. Vabbè, scusa. Quindi... La single non ha lo scannatoio e la casa con la mamma. La single vive da sola, è tutto lì. No, io... Tu sei come se tu fossi una persona sposata che fa delle fughe d'amore nella seconda casa, è la stessa cosa. No, perché comunque è una situazione di comodità, cioè è stata anche una scelta, sì, economica ovviamente, ma anche di comodità quella di non andare a vivere completamente da sola. Perché è comodo, perché ti permette scusami, di prenderti... Tu sai che non lascio passare quando non sono convinto. Tu non sei single, tu hai una relazione fissa con tua madre. Quindi stai lì... Quindi non è una singolarità. Se tu abitassi nella casa al mare come fosse tua abitazione, saresti una single. Io la vedo così. No, io non ne sono convinta invece. Perché una single comunque è una persona che fa una scelta di vita, esattamente come la persona che sceglie di sposarsi. E dopodiché questa scelta di vita te la cuci un po' addosso, no? Ti misuri il vestito. Adesso dirò una cosa cattiva. Nelle famiglie patriarcali c'era una figlia destinata a rimanere zitella, quella ad occuparsi della madre fino alla fine dei suoi giorni. Sei un po' in quella situazione, scusa. No, nella maniera più assoluta, perché mia madre è una persona giovanissima e completamente indipendente. Abbiamo due vite completamente diverse. Ci ritroviamo ovviamente la sera quando io torno a casa. Eh no, vedi, la singola sera torna a casa e affronta anche la solitudine se non c'è nessuno con cui passare la serata. Io sono stato single per tanti anni. Single significa che la sera a volte hai anche la terribile angoscia di tornare a casa ed è una casa fredda. Ti piacerebbe aver qualcuno e non c'è. E questo è il rovescio della medaglia. Se no non si può avere l'uno e l'altro. È come io mi affittassi un appartamento sotto casa, dico quando entro a casa mia sono sposato, quando entro nella seconda casa sono single. È schizofrenica. La singolarità, secondo me, poi mi corroboreranno le persone che hanno ragione di farlo telefonando all'800 24 0024, è fatta di momenti di splendore e momenti di estrema depressione, se no altrimenti uno non sarebbe single. Perché quando uno sta solo, torna a casa e non c'è nessuno, a volte si trova depresso. Ma allora significa che uno che si deprime nello stare solo è una persona che non sta bene con se stessa, quindi se non sta bene ma con figurati, se stessa... Ma figurati, non sta bene con... Ma le giornate non sono tutte uguali, scusami. No, una persona che sta solo c'è molta... ci sono dei grandi vantaggi nello stare soli. Ho capito, ci ma sono ci sono dei giorni... Dei grandissimi vantaggi. Ti spiego, ci sono dei giorni... Ma ci sono dei giorni in cui vorresti avere uno... Se ci sono dei giorni in cui tu dici vorrei avere uno sfogo, una persona con cui sfogarmi, ma no, che è andata male al lavoro, perché... Sì. Questi giorni ci sono per tutti, anche per chi è sposato, anche per chi ha una relazione e vorrebbe una persona comunque diversa con cui sfogarsi, con cui togliersi quei cavoli dalla testa. Sì, ma quello già entriamo nella gradualità, esatto, e nella qualità dello sfogo. Comunque aver, esatto, qualcuno a casa è un grande conforto. Questo è l'unico vero vantaggio di non averci qualcuno in casa. Comodità. Sicuramente una grande comodità. Tu dici comodità, ma io dico un conforto dell'anima a volte, non soltanto comodità, perché uno si prende una colfo se soltanto per farsi stirare le camicie, capito? No, è una grande comodità, sì, a livello sia morale sia materiale. Ma materiale no, perché oggi, guarda che oggi le mogli non è che fanno più... Dobbiamo intenderci sul concetto di singolo. E tu dici comodità, ma io dico, le mogli e i mariti non è che stanno più al servizio, perlomeno nelle... circostanze più frequenti del coniuge, non è che stai a casa e trovi la cena pronta o il pranzo pronto. Oggi si lavora di solito normalmente in famiglia. La comodità, io ti dico il conforto, avere una persona comunque che è un referente in casa, comunque sì, anche se in quel momento tu magari ne preferesti avere chissà quante altre di più vivaci, però questo è il vantaggio della coppia. Il single ha la meraviglia di avere la sua libertà totale, che può portare a casa chi vuole, può non rientrare a casa e tutto, però molte volte torna a casa, chiama gli amici, chiama le amiche, fa il giro delle telefonate, non sempre trovi persone con cui anche semplicemente scambiare due parole, e questo è il lato che è lo scotto dell'essere single. Tu mi dici la tua situazione. Ti capita anche se tu sei in coppia di fare il giro di telefonate? Non ci capiamo. Quando sei in coppia c'è sempre qualcuno a casa. Tu vivi con la mamma e la mamma è un'altra cosa. È una persona che è un compagno, compagna di vita, per quanto sia detestabile, per quanto ci litighi, è un'altra cosa rispetto alla mamma. Se non hai questa esperienza, è inutile che continuiamo a parlare. Maura. Sì, buongiorno a tutti. Io condivido quello che stava dicendo lei adesso, nel senso che... A me non piace definirmi single, nel senso che preferisco la parola italiana più dura, più forse schietta, che io vivo sola, abito da sola e ho una vita sociale comunque, credo che è normale, ho degli amici o delle amiche. Poi mi conviene con me che la scelta di vivere soli è fatta di momenti di estrema felicità, ma anche momenti a volte in cui la solitudine è un peso. Assolutamente, io per dire un esempio pratico, proprio il primo dell'anno stavo male, non stavo bene, ho chiamato amici e amiche e non ho trovato nessuno, comunque anche buone amiche, ma per vari motivi non potevano aiutarmi. Ma uno può manco pretendere, io quello e volevo infatti, far capire alla sua collega prima, che sono dei momenti in cui anche il prossimo più vicino a noi, quello che ci vuole più bene, cioè più amico, infatti, ha i suoi problemi, non possiamo pretendere. Esatto. Soltanto una persona che divide la vita con noi è comunque sempre a nostra disposizione. Ecco, questo è, è l'unico aspetto, cioè diciamo l'unico, uno degli aspetti più confortanti della vita di coppia. Comunque c'è sempre qualcuno che si occupa di te, ecco. E devo dire la verità che poi per uscire da quell'impasse ho chiamato la mia mamma, perché comunque è l'unica, ed è bastato per una semplice telefonata per uscire di casa e riacquistare un attimino un po' più di lucidità. E stavo male perché avevo mangiato troppo, ce lo ammetto. E comunque no, la scelta di vivere sola, la mia è stata all'inizio forse un po' così, cioè attirata da quello che può essere la bellezza di essere sola, di scegliere le proprie decisioni, di portare avanti anche le proprie decisioni e creare anche il tuo mondo, perché secondo me decidere di stare da sola, di non condividere per il momento la vita con nessun altro, è anche proprio un'esigenza interiore di affrontare la vita con le tue forze, con le tue... No, ma io la capisco perfettamente, io lo dico... cosciente di quello che sto dicendo, a volte profonda invidia di chi vive da solo. Ci sono dei giorni in cui uno vorrebbe veramente starsene da solo, perché è un grande sollievo non avere altro impegno che seguire il filo dei propri pensieri o dei propri desideri. Mentre Alessandro Chiappini è fuori causa perché è felicemente avvinto da vincoli indissolubili del matrimonio, Fabrizio Intonti nella pausa mi ha lungamente martoriato i timpani nell'interfonico dicendomi: tu hai trattato male quella povera ragazza, in realtà non vi siete capiti. Lei per single intendeva la sua condizione di singolarità affettiva, non era sposata, era zitella, quindi viveva con la madre e aveva la seconda casa per ampliare i suoi orizzonti sensoriali. Dice: io cosa sono? Mi dice Intonti. Vi dico la situazione di Intonti. Intonti ha la famiglia a Roma, i genitori, i fratelli, via dicendo, ma vive in un appartamento assieme a altri ragazzi come lui. Quindi è single da un punto di vista di singolarità, il fatto che non sia sposato o ufficialmente fidanzato, ma non vive da solo, vive con altre persone, quindi quando torna a casa la sera si può stappare una bottiglia con i suoi amici. Allora, ho riflettuto in questi pochi istanti, io darei all'accezione di singolo o singola il significato di persona che comunque ha un luogo fisico che non divide con nessuno abitualmente, ha una casa propria in affitto, scannata, rubata, ereditata dalla nonna, sgraffignata a qualcun altro. Comunque quando chiude la porta non c'è nessuno in casa. Quello è il single. Se no è una persona che vive, come nel caso di Intonti, una condizione di singolarità relazionale. Si accoppia come vuole, con chi vuole, quando vuole, però la sera a casa non è solo perché ci sono gli amici in casa. Quella è una condizione di prolungamento di una situazione studentesca, diciamo. Ecco, il vero single è colui quando apre la porta di casa, gira la chiave e la porta, la toppa è chiusa a chiave, perché nessuno è entrato prima di lui e nessuno entrerà dopo di lui a meno che lui non apra da dentro la porta. Questa è la condizione singolo. 800240024. Vorrei però conforto a questa mia frastagliata e confusa teoria da un'esperta di singolarità, Maria Francesca Rotondaro. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno ai tuoi ascoltatori, single e non. Allora, tu sei una giornalista e autrice di Sex and Facebook, monopensieri di una singola ai tempi di Facebook, edizione Giulio Perroni. Qui hai fatto un manuale della donna singola ai tempi di Facebook, quindi con possibilità di espandersi in maniera meravigliosa in mille rivoli, e di questa espansione, se vuole, come un pescatore getta la rete e porta a casa i pesciolini che più gradisce, e farne anche un uso piacevole. Beh, sicuramente. Intanto sì, sono una serie di battute ironiche, più che un manuale, al singolare femminile, soprattutto al singolare femminile. Però, come dicevi tu, intanto non è cambiato molto dai tempi in cui tu eri single, vivere la singletudine. I tempi di Facebook sono gli stessi tempi in cui tu hai vissuto la singletudine, con un vantaggio probabilmente, quello di aggregarsi, di confrontarsi attraverso il social network, che pure nel mio libro comunque fa da colonna sonora, cioè rimane da sfondo. Partendo da un fatto che mi riguarda, è vero, io studio la singletudine, studio il mondo dei single, ma sono single sia nel mio status sociale che nel mio status fisico e anche mentale, quindi single a 360 gradi, e quindi assolutamente d'accordo con te. Il vero single è quello che vive da solo, che torna a casa e teme il silenzio, che attraversa momenti di felicità estrema perché può fare quello che più gli pare e piace, è responsabile esclusivamente di se stesso. Però nello stesso tempo deve confrontarsi, rapportarsi ogni giorno anche a problemi pratici come quelli appunto della spesa, dello stiraggio, dell'approccio al banco frigo con qualcuno che ti possa aiutare, soprattutto nel caso degli uomini, oppure con la manutenzione domestica nel caso delle donne. Però mi dai atto. E tu dici un uomo che ha vissuto da solo veramente per tanto tempo e piacevolmente da solo, che questi sono i problemi di tipo minore. Non mi sono mai preoccupato, perché uno impara velocemente a fare quelle cose, le fa in automatico. Il vero limite e il vero tedio della singolarità non è doversi preoccupare della casa, della cucina, della spesa, è proprio quel dover girare la chiave nella toppa e trovare una casa con dentro nessuno, che secondo me... Io mi ricordo delle serate che rientravo tardi, ero stato fuori, facevo l'inviato in quel periodo, quindi che mi avrebbe fatto piacere avere chiunque a casa, purché avere qualcuno che non fosse il solito amica beccata all'ultimo momento al telefono in fretta e furia, con cui vai a prendere qualcosa al volo, con gli occhi ti si chiudono dalla stanchezza e alla fine non c'è niente da dire, perché l'occasione procurata, l'appuntamento, l'amica che si convoca, richiede sempre comunque una ritualità. La persona che sta a casa invece sta lì. Certo, uno vorrebbe una bacchetta magica che appaia e scompaia quando vuole, sarebbe l'optimum, ma questo non è possibile. Certo, guarda, le mie pagine seguono esattamente l'andamento positivo e negativo della singletudine. Io chiudo questo libro proprio parlando del gioco del silenzio, lo chiamo così, cioè quello che tu descrivi, cioè quell'atmosfera, tu apri la toppa, giri la chiave nella toppa, entri in casa e non trovi nessuno. Però anche il silenzio può essere un vantaggio nella vita di un single, cioè stare in pace con se stesso, magari proprio dopo una stressante giornata di lavoro, cioè tutto è positivo e tutto è negativo nella vita di ciascuno di noi, e in particolare proprio nella vita del single. Qual è il vantaggio? Perché bisogna dare pure una speranza, no? A questi single, non sono delle persone sole, ma sono delle persone che secondo me possono scegliere di avere un compagno per una sera, così come di rimanere da soli. Diciamo che il social networking aiuta molto, perché ai miei tempi bisognava cominciare a girare l'elenco del telefono, l'agendina. Oggi si apre Facebook, si hanno comunque un numero di relazioni telematiche che possono accendere comunque, anche riempire un vuoto, perché chiacchierare con una persona anche attraverso il computer a volte soddisfa sufficientemente. Io non seguo la linea del grande Bauman, che fa una distinzione fra connessione e relazione, cioè le connessioni è un'altra cosa, ma non è affatto vero. Sono relazioni a tutti gli effetti, quelle con la persona che quando accende il computer ti dice come stai, come è andata la giornata, dà comunque un calore sufficiente a non sentirsi soli. Però vorrei sentire un attimo Marianna. Marianna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Singola da 5 anni a Milano. Sì, in realtà da quello che ho ascoltato dei vostri discorsi precedenti, in realtà io non sarei una single al 100%. Perché? Perché io vivo con altre due persone, di cui una single e una con una fidanzata, tra poco presumo che si sposerà, non passerà molto tempo, ma il suo ragazzo vive in Sicilia, io sono siciliana e vivo a Milano, tra Milano e Roma ormai da 5 anni, da Milano stabilmente da 4. Però io sono una single cronica, cioè a parte una brevissima parentesi di 4 anni con una relazione stabile, mi definisco una single cronica, anche se devo dire sono, diciamo, d'accordo. Però una forma di singolarità un po' spuria, perché lei non sa, lei è una, diciamo, è il prolungamento di una situazione di studentessa portata in un'età più avanzata rispetto a quella universitaria. Beh no, perché comunque nonostante viviamo in tre in casa, abbiamo orari così diversi e impegni così completamente differenti che raramente riusciamo ad essere, sì, tutti insieme. Lei non è padrona totale di casa sua, il single, esatto, è padrone totale di casa sua. Questo non può violare la camera della sua amica e non può lasciare le mutande in bagno quando se ne esce di casa, perché sai, dovrà dividerlo con qualcun altro. Ecco, queste sono le cose che di distinguono il pieno dominio, il possesso totale, dispotico e tirannico su un'abitazione e il doverla dividere civilmente con altre persone. Questo è vero. Questo è vero. Vedi, ho messo il dito nella piaga, mi spiace. Laura. Buongiorno. Pronto? La sto ascoltando. Sì, io ho 46 anni e vivo sola praticamente da sempre. Ho avuto parecchie storie, ma poi finite male. Però io credo che... Ma le storie se le portava a casa sua oppure a casa sì, sua? Sì, sì, le portavo a casa mia. E si piazzavano anche in casa le storie? Qualcuno si è piazzato per qualche breve periodo, ma io sono una anche che pulisce molto, amo molto l'ordine, quindi è una cosa che mi creava disagio. Ecco, diciamo la donna single, immagino, sì. Suppongo, sia preda ambita anche per gli eterni giugioloni in cerca di sistemazione, in fondo... Non molto adesso, non molto, l'uomo tende comunque sempre a scappare, quindi non direi proprio... Però, non lo so, io è talmente tanto tempo che vivo da sola che ormai si è incancrenita questa situazione e sto bene. I primi tempi, devo dire la verità, come sosteneva lei, rientro a casa, la solitudine era un po' difficile da affrontare. Adesso, sinceramente, non la scambierei per niente al mondo. Sì, diciamo, col passare del tempo è chiaro, uno trasforma in un sano egoismo quel tipo di nostalgia per l'essere umano, ecco. Sì, un egoismo terribile e comunque credo anche che sia molto più comodo stare in coppia. Io credo che moltissima parte della gente, perlomeno che io conosco, resta in coppia proprio per una questione di comodità. Voi dite sempre comodità, io dico piacere, perché comodità è qualcosa legato a un bieco consumo, piacere è anche un piacere fisico, mentale, benessere, ecco, forse questo. Certamente, però vuol mettere la comodità, ripeto, la comodità anche tra virgolette di essere in due, cioè di comunque di avere un supporto per qualsiasi cosa, come la ragazza che era stata male il giorno di Capodanno. Ma non so, io questo non lo capisco, perché io il supporto materiale in realtà sono molto autosufficiente. Quello che mi manca molte volte è un supporto e una tenerezza di altro tipo. Il supporto materiale, ma m'arrangio sempre da solo, non ho mai avuto bisogno di nessuno da quando sono uscito di casa, quindi da questo punto di vista mi sento... Però su questo vorrei conforto da chi mi ascolta, che può chiamare all'800240024. Qual è in realtà la più profonda, lancinante, struggente nostalgia del single, che in realtà è beato, invidiato, fortunato, possessore illimitato dei propri spazi fisici? 800240024, dovrei leggervi alcune delle tristi e agrodolci storie di singletudine che mi vengono scritte su Facebook. Marianna mi dice, mi strugge il cuore perché fra l'altro è una callipigerrima collega e mi sembra veramente tanta grazia di Dio sprecata, ma dice: da single quando esce lascia la radio accesa, così quando rientra la sera le sembra che qualcuno stia parlando a casa sua. Povera Marianna, spero la tenga accesa sulla nostra radio. Daniela: quando ho dormito a casa mia da sola dopo anni in cui non mi capitava, ho morito due figli, ho avuto una sensazione stranissima, una specie di déjà vu, dolce e amaro allo stesso tempo. Non mi era capitato molte volte viaggiare da sola per lavoro senza famiglia, ma dormire a casa mia sola no. Chissà quale fremito avrà preso Daniela. Consuelo, che è un'artista, scultrice, creatrice di meravigliose figure su divani che io ho elaborato in maniera impropria e messo sul mio profilo, le troverete. E allora Consuelo dice: quando vivevo sola nel mio atelier non avevo neanche la doccia per lavarmi, mi toccava andare in piscina o da qualche amico che offre generosamente il suo bagno. Era una tragedia se avevo qualche appuntamento imprevisto, immagino. Consuelo con l'appuntamento galante: usciamo questa sera, sì, però deve correre con l'asciugamanino e con il deodorante a casa del suo amico, perché se non si dà una lavatina l'appuntamento potrebbe andare male. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire portando un'accezione in più del single, ovvero di quelle persone che sono single per atteggiamento mentale, cioè restano sempre, hanno sempre uno spazio nella propria mente che non condividono o condividono raramente con gli altri, pur vivendo in coppia, quindi avendo una vita che non è da single, né perché sia una casa tutta per sé. Ma non sono single questi, vuol dire? Non... Sì, si rimane single... No, si rimane chiusi in se stessi, ma è anche giusto che sia così. chiusi in se stessi significa che si è incapaci di comunicare. No, sono persone che hanno capacità di comunicare, di condividere la propria vita. Sì, ma come fa a essere single? C'è un'altra persona dentro casa, non può far finta sia trasparente, ne sente l'odore, ne vede i piedi per terra. Però l'altra persona rispetta reciprocamente il fatto che questa persona possa avere l'esigenza di avere uno spazio tutto per sé, che se lo va. Ma se lei si vuol portare, scusi, un plotone di bersaglieri a casa, l'altra persona che dice? Beh, è chiaro, insomma, i limiti sono. E allora non è single. Maggiori. La single può portare un plotone, un battaglione, quanti ne entrano in casa? O il single può portarsi un intero convento di monache di clausura, se ci riesce, ma ognuno può fare quello che vuole se è single. Il single, e l'abbiamo detto, se no facciamo equivoci e entriamo in suddivisioni di lana caprina, è colui che ha padronanza totale di uno spazio fisico che non divide con nessuno a meno che lui non lo voglia. Se no sono sottigliezze, non entra nulla. Roberto, buongiorno, finalmente un uomo. Buongiorno, buongiorno. È d'accordo? Non lo so, forse dico bestialità. Sono d'accordissimo. Bene. Io sono un singolo, vorrei portare una nota anche positiva. Ma sono tutte positive. Io ho detto l'invidia, l'ho detto subito. Un'invidia smodata della singletudine. Io guardi, dirò di più, che molto spesso quando mi chiudo la porta dietro, io sto bene. Lo so, mi ricordo, anch'io stavo bene. Sto bene perché vivo in una casa che mi piace, in una casa che rispetta il mio carattere, le mie passioni. E quindi nel mio ambiente io ci sto bene. Non ho bisogno di nessuno perché mi faccio da mangiare, mi lavo le mie cose, ordino la mia casa. Anzi, tante volte sono dalle persone, dalle donne, invidiato per come gestisco il mio ambiente, come il carattere che do al mio ambiente. Quali sono i momenti, poi... però i momenti down quali sono di questa meraviglia che ci fa venire l'acquolina alla bocca? Sono d'accordo con lei che ci sono dei momenti in cui si ha bisogno di una persona vicino. E certo. Ma io sfido chiunque, anche la persona che ha una famiglia o che vive insieme a tante altre persone, sfido chiunque a non sentirsi ogni tanto soli. Verissimo, verissimo. Però proprio per non essere partigiani solo di un punto di vista, chi vive con una persona comunque sia è una sensazione epidermica, molte volte non corroborata da una profondità di partecipazione. Ha comunque la sensazione di avere uno spazio riempito vitalmente. Poi magari non rivolge la parola all'altra persona, o la maltratta, o ci litiga. Comunque sia, a livello proprio subliminale, è un grande conforto questa cosa qui. E questa è la ragione per cui le persone poi stanno assieme per tantissimi anni. Per questa ragione qua. Poi magari possono esserci contrasti, o magari in quel momento uno vorrebbe avere vicino il principe azzurro o la principessa Sissi, a seconda dei gusti. Però avere un'altra persona in casa non crea quel gelido senso di solitudine, anche in una casa perfettamente arredata, bellissima, pulitissima, di grande stile, grande gusto. Quando chiude la porta è solo, sì, fuori c'è il mondo, però noi dentro siamo soli. Gigi. Pronto? Eccomi. Sì, niente, io volevo dire che mi riconosco perfettamente nella tua descrizione di single, nel senso che io ho 41 anni, vivo da solo, sono perfettamente autonomo, nel senso che sono in grado, oltre che fare pulizie, lavare, stirare, so perfino attaccarmi un bottone, che ci vuole, non lo so, le ultime ragazze che ho conosciuto sembrava roba da marziani, però effettivamente devo dire che ci sono dei momenti, come dici tu, in cui uno arriva a casa e gradirebbe di trovare qualcuno, effettivamente momenti di solitudine. Lo sai, però diciamo il tuo accento tradisce la tua derivazione geografica. Nella situazione romana, visto che partiamo dalla situazione romana, è molto diffuso il fatto della persona che vive solo, c'ha un lavoro, c'ha una professione, ma c'ha a 5 minuti da casa i genitori, le mamme sempre pronte. Quindi è una singolarità inquinata dal fatto che comunque hai due alternative la sera: o imboccare la porta di casa dei genitori, o imboccare la porta di casa tua. E quindi è alleviato questo senso di giusto disagio, che è il giusto prezzo che si paga per l'estrema felicità poi di stare soli. Carla. C'è. Eccola Carla, sì. Eccomi qua. No, La sento un po' distante? Sì, eccomi. Ecco. Allora, rispetto al gelido, alla sensazione di gelido di cui parlava, io la condivido perché invidio tantissimo i single, però non posso permettermi questa condizione a causa dei miei piedi gelidi. Io ho sempre i piedi freddissimi in ogni stagione, anche quelle estive. Quindi c'è bisogno di qualcuno che li riscaldi. Quindi assolutamente, non può stare sola. Infatti, anche quando litigo col partner, alla fine devo far pace la sella, perché nel letto se no non avrei possibilità di addormentarmi. Ma esistono comunque esistono dei presidi medico-clinici? Sì, dell'acqua calda, ma... Sì, ma ci sono delle termociabatte, adesso non so bene cosa sia, ma penso che esista qualcosa per scaldare, degli scaldapiedi. Non sostituiscono a pieno. Ma se il suo partner magari non si taglia le unghie, è anche spiacevole avere quei piedi taglienti vicino. Difatti. Accade. Accade anche questo, sono questi anche. Quindi lei baratta la sua voglia di stare sola per dei piedi taglienti che scaldano i suoi piedini ghiacciati. Diciamo che io ho vissuto la condizione single per un brevissimissimo tempo e ricordo quando potevo tranquillamente fumare a letto, quando ritrovavo ogni oggetto là dove l'avevo lasciato e se lo perdevo non potevo che prendere. Però lei fumava a letto, ma fumava ovunque, meno che sui piedi che erano sempre ghiacciati, quindi ha trovato il piede di scalda. Grazie a tutti i single che ci hanno aiutato e corroborato questa mattina. Grazie a Maria Francesca Rotondarco, ricordo scritto Sex and Facebook, monopensieri di una single ai tempi di Facebook. Leggetelo se vi servirà, ma mi sembra che ne sappiate già tanto sulla singletudine. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.